Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Avete portato un amico con voi, sono le 11.08. Ringrazio in regia Filippa Orreggi, in redazione Laura Vanossi, e vi anticipo che c'è un ospite in studio che resterà con noi fino alle 12. Adesso sentiamo il sommario. Scommetto però che avete già indovinato, un po' di suspense. 824 0024 se volete intervenire. Questi i temi di oggi. Successi e insuccessi sportivi in vacanza. A voi com'è andata? Una pianta per amica. Andiamo a farci friggere. E sì, torniamo con le buone abitudini in studio con me, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, direttore del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, ben ritrovati tutti, spero dopo un'ottima vacanza. Sono felice, proprio, Si riprendono le buone abitudini, perché nel corso dell'estate lei ci ha aiutato ad aprire la settimana e soprattutto a rimanere in forma. Oggi torna nella sua collocazione abituale, ci accompagnerà sempre al venerdì. Insomma, il venerdì cosa c'era? Trippa? No, giovedì pesce. Giovedì gnocchi, esatto. Sabato trippa e venerdì pesce, come il dottor Confalonieri. E per noi venerdì sport, esercizio fisico, benessere, insomma. E lei ci ha insegnato a tenerci in forma o a provare a rimetterci in forma. Allora io vorrei chiedere agli amici da casa, che hanno seguito i suoi consigli, se hanno avuto dei risultati e quindi successo, oppure se invece qualcosa non ha funzionato. Sì, vorrei proprio... Quindi è un po' un esame per lei, dottor Confalonieri, questo. Sì, anche per chi non ha seguito i miei consigli, ma magari ha fatto esercizio fisico. Ecco, diciamo che potrebbero esserci tre categorie di persone. Coloro che hanno cominciato in vacanza, che magari lo facevano saltuariamente o molto poco, hanno approfittato di questo periodo per cominciare a fare sport in modo continuativo. Vorrei sapere da loro com'è andata e adesso vogliono continuare, hanno abbandonato definitivamente l'idea di fare sport. Insomma, com'è andata in vacanza e che idee hanno per questa ripresa. Però vorrei sentire anche coloro che invece le vacanze se le sono godute, magari facevano sport tutto l'anno e in vacanza hanno detto basta, stop, mi fermo, mi dedico alla famiglia, alla lettura, alla meditazione o insomma al divertimento senza fatica. E infine i fanatici che già lo facevano, che hanno proseguito e magari in vacanza, avendo un po' più di tempo, hanno scoperto un nuovo sport, hanno abbinato alle loro attività abituali qualcosa di nuovo, di diverso, come si sono trovati e cosa pensano di fare per continuare con la loro passione. Quindi insomma vorremmo sentire un po' tutte queste esperienze proprio per capire com'è andata e come pensano di ricominciare. Quindi dalle vacanze siete tornati vincitori o sconfitti? O rotti, infortunati, ecco. Perché parleremo anche di questo, perché può capitare. Giustissimo. Una partita a calcetto e avevamo, giustissimo, tutto un programma di allenamento magnifico e invece siamo rimasti. Ecco, cioè, sul piano della salute, proprio puramente della salute, siete tornati con un infortunio, quindi state peggio di prima, oppure siete tornati rinnovati, più in forma, vi sentite meglio, vi piacete di più? Quindi vorremmo capire anche se la vacanza è servita a rovinarvi o a migliorarvi. 824 0024, questo è il nostro numero verde per raccontarvi. 349-238-6666 se invece preferite scriverci un sms. Una mela al giorno. Io vorrei adesso farvi una proposta, la butto lì. Prendete una piantina e occupatevi di lei. Io sono certa che saprà essere molto riconoscente, vi darà il buongiorno al vostro risveglio, vi stupirà con nuove foglioline, crescerà, vi darà soddisfazione e darà un tocco di colore e armonia alla vostra casa. Perché dopo le vacanze il verde ci manca, allora questa potrebbe essere un'occasione per portare dentro le piante d'appartamento che abbiamo sistemato nel balcone e magari aggiungere qualche piantina in più. Ci facciamo consigliare, dare una mano da Nadia Nicoletti, che è tornata a trovarci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Autrice di un libro ormai famosissimo, L'insalata era nell'orto, di cui abbiamo più volte parlato. Nadia, abbiamo bisogno di lei per aggiungere un tocco di verde, ma direi anche un tocco di armonia, di eleganza, di piacevolezza alla nostra casa. Dunque, per quanto riguarda le piante d'appartamento, molti di noi ne abbiamo già in casa, altrimenti possiamo procurarcela. Nei garden, per esempio, in questo periodo ho visto delle bellissime tavolate intere di ciclamini. Allora, il ciclamino, quello più piccolino, è anche un pochettino profumato, più profumato rispetto al ciclamino grande, diciamo. Allora già, per esempio, per la nostra casa possiamo pensare a un tuffo nel colore, nel senso che noi possiamo pensare alle vaschettine con questi ciclamini che stanno sul davanzale di casa all'aria, all'esterno, e finché verranno le notti più fredde. Poi in zone fredde oppure dove le notti gelano eccetera andranno la sera riparati in casa. Poi però ci sono anche moltissime piante verdi che noi possiamo prendere, facilissime di coltivazione, penso al potus, una palancoa, uno spatifillo, una violetta africana, un ficus beniamina, non so chi più ne ha più ne metta. Le piante verdi sono una bellissima esperienza anche da fare quando in casa abbiamo in famiglia un bambino, per esempio. Sto pensando che con un potus, per esempio, che è facilissimo, possiamo insegnare a un bambino come si fa una talea, perché io ne prendo un ramettino, lo metto in un vasetto trasparente con l'acqua e dopo un po' questo potus mette le radici, per cui avremo una pianta nuova. Ecco, per cui da un semplice vaso che io compro in fioreria si crea poi una storia, no? Una famiglia di piantine. Una famiglia, perché poi io lo passo, faccio piantine per gli amici, eccetera. Piante d'appartamento a volte sbagliamo, nel senso che sbagliamo sempre per troppo amore, nel senso che per esempio andiamo troppa acqua. Allora il mio consiglio, per esempio, è quello di fissarsi una giornata, non so, il sabato o la domenica, una delle due giornate, in cui siamo a casa e diamo per esempio l'acqua alle piante di appartamento, in modo che una volta in settimana una bagnata, che non sia esagerata, insomma non ne facciamo affogare, è sufficiente per coprire, diciamo, tutta la settimana. Poi sempre pensando alle piante d'appartamento, ogni tanto ricordarsi di dare un pochino di concime, nel senso che è come darle da mangiare, no? O cambiare la terra quando le piante sono diventate troppo grandi, allora ecco che possiamo prendere un buon terriccio con tante sostanze nutrienti, oppure se il vaso comunque rimane sempre lo stesso, ricordarsi ogni tanto, una volta ogni mese e mezzo, due, di dare un pochettino di concime, che è come dare il cibo, ecco, alle nostre piante, oltre all'acqua. Nadia, tra l'altro, io so che lei è a Mantova, sta preparando un laboratorio per bambini. A Mantova sarò oggi alle 16:30 e domani alle 11 al chiostro di Piazza Virginiana. Terrò questo laboratorio per bambini che è intitolato L'Orto delle Meraviglie. In realtà non è che facciamo proprio un orto intero, ne facciamo uno piccolo da portare a casa. Ogni bambino farà il suo orticellino piccolino da portare a casa per accudire in questo periodo di fine estate. E poi impareremo a fare altre meraviglie piccoline che saranno una sorpresa per i bambini che verranno. Allora Nadia, io le do un appuntamento per insegnare, dato che l'ha insegnato a Mantova ai bambini, a preparare proprio un mini orto. E quindi la invito nuovamente a venire a trovarci. Sicuramente, sicuramente. Allora, grazie a Nadia Nicoletti, ricordo, l'insalata era nell'orto. Buona Mantova, buon laboratorio. Grazie. Buon lavoro e buon verde. Grazie, un abbraccio a voi. Arrivederci. Pronto soccorso. Siamo tornati dalle vacanze, molti di noi si sono dati da fare e allora tiriamo un po' le somme. Che voto diamo? Positivo o negativo? Successi e insuccessi? Ne parliamo con il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, che è qui pronto per aiutarci un po' ad aggiustare il tiro. Parleremo naturalmente anche di infortuni, ma vorremmo occuparci non solamente del fisico ma anche della mente, perché abbiamo visto tante volte insieme al dottor Confalonieri e a tanti esperti che fare attività fisica incide anche sull'umore, quindi uno si sente più in forma ma anche più positivo, direi, dottor Confalonieri. Sì, c'è un'interazione molto molto forte proprio a livello neuroendocrino tra l'esercizio fisico e la capacità di reagire allo stress, la capacità di concentrarsi e il tono dell'umore. Quindi magari abbiamo fatto anche queste esperienze in vacanza e vorremmo mantenere un po' del beneficio, del benessere, della positività della vacanza anche durante la nostra vita quotidiana, lavorativa, magari attraverso la pratica dell'esercizio fisico, dello sport, del gioco. 824 0024 è il numero che ha fatto Francesco per intervenire in diretta. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Ci racconti, mette un più o un meno lei? No, addirittura due più. Durante l'anno, sono un professionista, come tutti i professionisti abbiamo poco tempo, quindi 2-3 ore alla settimana la dedicavo alla palestra con un trainer e ho mantenuto una forma fisica senza deformarmi, ma non avevo avuto nessun risultato. E per di più, quando si arriva dopo 8 ore di lavoro si è stanchi, si ha poca voglia, da cui quasi la necessità di avere qualcuno che ti inciti a fare questo esercizio. Invece durante le vacanze sono andato sul lago a Colico, che è un posto alla fine del lago di Como, sì, da cui si riparte un bellissimo percorso lungo il fiume Adda, e ho cambiato modo di allenarmi, cioè anziché fare palestra con il solito esercizio, ho semplicemente corso, sì, in modo un'ora al giorno, il mattino, il pomeriggio, e questo mi ha dato la possibilità di perdere quei pochi chili che mi davano fastidio, e soprattutto, cosa interessante, mi sono sentito molto meglio anche intellettualmente. Infatti tutti i progetti che farò per il Salone del Mobile sono nati durante queste ore di corsa, dove all'inizio mi sentivo affaticato, poi mi sentivo sempre meglio e venivano fuori anche le idee. Bello, Francesco, questo è proprio, riprende un po' quello che diceva il dottor Confalonieri, che proprio l'esercizio fisico aiuta anche la testa, e a Francesco ha aiutato proprio a elaborare nuove idee. Sì, due considerazioni su questa telefonata estremamente interessante. La prima, una conferma per tanti: per perdere peso è molto più efficace la corsa lenta, la corsa praticata con naturalezza, potremmo dire lungo un fiume per esempio, che non l'attività di palestra. L'attività di palestra è molto meno specifica per perdere peso. Non a caso Francesco ci diceva: attraverso le mie 3 ore di palestra durante l'anno ho mantenuto la forma del mio corpo. Quindi la palestra ci serve a tonificare, a solidificare, mentre con la corsa possiamo perdere peso. La seconda cosa: l'esercizio fisico individuale, libero da ogni tipo di condizionamento, aiuta sicuramente la concentrazione. È un'esperienza abbastanza diffusa di persone che sono state capaci di prendere decisioni, di ideare progetti, di superare problemi professionali o familiari proprio meditando durante l'attività. Però c'è chi, come sono tanti gli ascoltatori che ci scrivono, hanno deciso di fare uno schema di allenamento, un po' come quello che ha suggerito lei durante le nostre vacanze, anche se blando, ma allenamento, perché impegnandosi si vedono i risultati. E a proposito di allenamento, abbiamo trovato un film, ne facciamo sentire un breve estratto, andiamo. Forza con quei pesi! Più veloce! Muovi quel tronco, svelto! Schiva! Forza! Vai! Piegati sul tronco, devi schivarle! Schiva! E adesso più veloce, via, via! Fermo con le gambe, finta sul tronco! Via così! E con questo filo di fiato vorreste fare una partita? E anche le bolle di sapone ci fate! Forza, forza, non vi fermate! Scioglietevi i muscoli! Niente più fumo, niente più alcol. Alle 9 a letto e sveglia all'alba. E questo solo per cominciare. Era il film, lei se lo ricorda, quello con Bud Spencer, Bomber e Bulldozer. Beh, in effetti quella sembrava quasi un po' una galera, no? Beh, può essere uno stimolo per ricominciare. Chi ha bisogno di essere fortemente motivato, lo inseriamo in un contesto come questo e magari ricomincia alla grande. Diciamo che al di là dell'esagerazione molto piacevole ovviamente del personaggio del film, ci sono persone che rendono al massimo se possono autogestirsi. Seguendo i consigli di un esperto, però si gestiscono giorno per giorno, ora per ora, in relazione alle sensazioni che il loro corpo gli manda. E invece ci sono persone che hanno assolutamente bisogno di qualcuno che li segue e che gli dà delle direttive molto precise, che li stimola, che li motiva per poter fare esercizio fisico. Anche qui la risposta e quindi la scelta e la soluzione deve essere individuale. E su questo, direi che su questa riflessione che lei ha suggerito, potremmo poi partire per una puntata successiva a cui sicuramente torneremo su questo tema, nella scelta dell'attività sportiva, certo, da fare, certo. Per cui anche questo, bisogna conoscersi per scegliere bene. Oggi facciamo un po' di bilanci, magari una delle prossime volte diciamo bene, e adesso cosa facciamo, come lo facciamo, attraverso proprio la conoscenza e una scelta che sia individuale. Senta, però ci vuole fisico, no? Ci vuole un fisico bestiale. Sì, sia nella vita che nello sport, forse. Sentiamo. Gara del lancio del martello e in pedana l'atleta Fantozzi. Primo lancio di Fantozzi. Nullo. Secondo lancio di Fantozzi. Ragioniere, il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge, vero? Sì, ho buttato giù 20 chilometri come se fosse un bicchiere d'acqua. Mi sento tutti i muscoli sciocchi. Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative, a cominciare dalla più agghiacciante, l'annuale sfida calcistica fra Scapoli e Ammogliati. Queste tensioni si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia. Le formazioni sono sempre molto ridotte, per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti. Ogni tanto lo riproponiamo Fantozzi, sì, che in effetti è geniale. Siamo, perché dentro di noi c'è un pezzetto di Fantozzi. In alcuni c'è un più grande, in alcuni più piccolo. Io appartengo a quelli che hanno un pezzo grande di Fantozzi dentro. Anch'io mi sento tante volte così. Però in effetti questa può essere un'esperienza vissuta in vacanza, il classico torneo cui ci hanno costretto gli amici o gli animatori del villaggio, o può essere un'esperienza anche che andiamo a fare adesso. Rinizia la stagione del calcetto, dello sport di squadra, e con tante delle cose che in modo così ironico e divertente accennava appunto Paolo Villaggio attraverso questo personaggio. E andiamo a Bergamo, ci aspetta Massimo, 824 0024. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo chiederle un'informazione, dottore. Circa 3 mesi fa, giocando a calcetto, ho preso uno strappo linguinale, trascurato come sempre perché poi il campionato, e il dolore piano piano, dopo circa un mese, si è trasmesso agli addominali bassi. D'accordo col dottore, il mio medico curante, ho fatto un'ecografia a tessuti molli, si è esclusa una lesione ai legamenti, e lui mi ha detto che se c'è stata, diciamo che era rimarginata, però è restato un po' di dolore agli addominali bassi, è restato il dolore quando si tosse, forte all'inguine, e adesso sto provando a rinforzare con un fisioterapista gli addominali, e questo dolore, diciamo che piano piano sta scomparendo. Non vorrei che, ripartendo a rigiocare il campionato, ritornasse questo dolore. Si è fatto anche un accenno alla pubalgia, alla classica pubalgia. Sì. Volevo sapere da lei appunto qualche consiglio sul da farsi, e se il tempo di attesa può essere prolungato. La maledizione della fidanzata, dottor Confalonieri. Direi che questa è un'esperienza non così isolata, comune probabilmente a molti anche dei nostri ascoltatori, e purtroppo devo dire a Massimo che qua l'unica terapia veramente efficace è il riposo, abbinato alla fisioterapia, eventualmente abbinato a qualche terapia fisica, però l'unica terapia veramente efficace è il riposo, per dare tempo alla lesione e alla conseguente infiammazione di essere superate. Quindi direi, almeno fino a Natale, il mio consiglio per Massimo è aspettare a riprendere la sua attività di calciatore. Andiamo a qualche messaggio. Ho fatto 20 giorni di vacanza, scrive Carlo da Roma, e mi sono allenato ogni giorno, di solito non ho mai tempo, allora ne ho approfittato, ho fatto male e adesso... No, non ha fatto male, perché se non è successo nulla, se si è divertito e si è in forma, ha fatto sicuramente bene. Probabilmente era già allenato Carlo, magari non faceva sport tutti i giorni, ma lo faceva con una certa regolarità 2 o 3 volte, quindi questo incremento estivo non ha creato problemi. Se di colpo dallo zero fosse passato a fare sport tutti i giorni, probabilmente gli effetti sarebbero stati molto più negativi. Ale ci scrive: io sono uno sportivo da ottobre a giugno ed estate mi rilasso, ora dovrei rimettermi in marcia, da cosa inizio? Bene, deve cominciare seguendo 2 regole fondamentali. La prima scegliere le attività sportive che già faceva, per cui c'è una certa abitudine al gesto tecnico e quindi un minor rischio di infortuni, non ricominciare con un'attività nuova a cui il suo organismo è poco predisposto. La seconda, iniziare possibilmente con uno sport di tipo aerobico, quindi con uno sport di resistenza, con uno sport che ha un impatto un pochino più leggero, e poi eventualmente inserire esercitazioni di velocità o di forza. Quindi se segue queste due regole, secondo me l'inizio sarà ottimo. Eccoci, siamo tornati insieme, successi in successi delle vacanze. Ci piacerebbe che voi utilizzasse questo spazio della nostra trasmissione per raccontarci anche un po' le piccole disavventure che capitano in vacanza, che a volte ci mettono KO. Anche al dottor Confalonieri ne è capitata una, no? Ah sì, ho fatto una settimana, l'ho fatta gonfio, perennemente gonfio, per una reazione istaminica alla luce, una storia lunga, quindi voglio dire, sono vicino a tutti coloro che non hanno goduto della loro vacanza, perché anche noi che dovremmo sapere tutto ogni tanto cadiamo vittima di questi piccoli incidenti, quindi li abbraccio tutti davvero, ecco, e se chiamateci, vogliono chiamarmi, chiamateci, condividiamo le nostre pene, che ci teniamo sul morale. 800 24 00 24. Ma io saluto il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano, con cui apriamo una breve parentesi sull'influenza. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono tempi durissimi questi per lei, eh? È terribile. Speriamo che questa comunicazione è necessaria per fare chiarezza, evitare allarmismi eccessivi, perché il problema esiste e va affrontato in modo adeguato e con buon senso. Senta, i giornalisti la stanno spolpando vivo. Ma effettivamente questi giorni è stata veramente intensa l'attività di comunicazione. Senta, a proposito di attività intensa, oggi tra poche ore, può darsi in questi momenti, nel caso lo prenderemo subito in linea, Fazio firma l'ordinanza per i primi vaccini e i servizi essenziali. E ci sono le categorie, no, che vengono vaccinate contro l'influenza, le prime, e sappiamo il personale sanitario, tra questi sicuramente il personale sanitario, ricordiamo i lavoratori delle forze di polizia, i lavoratori di banche posto, i vigili urbani, i vigili del fuoco, e rientrano sicuramente in questa categoria, in questo step di vaccinazione, i pazienti a rischio con malattie gravi e croniche. Allora, professore, sicuramente tra questi pazienti saranno molti abitualmente a vaccinarsi contro l'influenza stagionale. Ripetiamo che il vaccino è facoltativo, nessuno verrà a casa a vaccinarci contro la nostra forza, ma che cosa dicono le evidenze scientifiche? Lei con una malattia cronica si vaccinerebbe per l'influenza stagionale e per l'influenza da virus A, o darebbe la precedenza a un vaccino e poi, ma in attesa poi di vaccinarsi successivamente? È determinante, a mio avviso, mantenere alta l'attenzione al vaccino stagionale e cominciare subito con il vaccino stagionale, in modo da garantire delle coperture che a tutt'oggi purtroppo non ci soddisfano completamente, perché siamo circa solo al 60% di anziani ultra 65 anni che si vaccinano e un 20% circa dei gruppi a rischio. Il problema di quest'anno è che comunque questi virus stagionali ci saranno come sempre una triade, tutti e tre di origine australiana, e l'impatto complessivo dei casi di influenza vedrà sicuramente un loro contributo importante a questo concerto di malattie. È stimabile che un terzo dei casi complessivi siano appunto dovuti a questi virus, il resto a quello nuovo. Quindi è importante, anche perché questo tipo di vaccino è già disponibile nelle quantità storiche usuali, fornito, acquistato per essere distribuito, quindi credo valga la pena di mantenere l'appuntamento per questa parte di vaccinazione, perché tra l'altro è su un ambito molto ampio, mentre il vaccino pandemico potrà essere in qualche modo disponibile solo per un iniziale segmento di popolazione più limitato, e quindi si tratta di una necessità poi, a mio avviso, per i soggetti più a rischio di essere protetti anche per la nuova influenza, però appunto la tempistica e la dimensione complessiva non permetterà una copertura totale. Senta professore, lei essendo un medico verrà vaccinato, entra in questa prima no? Batteria esatto, di... Ma ci mancano ancora le disposizioni operative, perché al di là della decisione formale del ministro sulle categorie, poi l'operatività, la distribuzione e diciamo l'effettivo inserimento nelle liste dipendono poi a livello regionale e a livello addirittura territoriale di ASL competente. Senta, ma professore, lei dirà sì o dirà no? E poi io sì, senz'altro, io lo faccio da anni in pubblico, con un giornale per dimostrare che è vera. Senta, ma io mi riferivo al vaccino per l'influenza da virus A. No, naturale, anche entrambi ritengo che abbiano una valenza di efficacia, i risultati già visti in termini di protezione sono assolutamente interessanti, ed è importante ribadire l'aspetto della tollerabilità, che è il problema che spesso chi è un po' scettico o antivaccinatore, perché poi c'è anche questa figura ormai emergente ed è un peccato, la tollerabilità anche di questo nuovo vaccino è sostanzialmente comparabile a quello dell'influenza stagionale, perché non è, insomma, è di buon senso considerare il fatto che la tecnologia che si usa è quella assolutamente che da anni utilizziamo per approntare il vaccino stagionale, quindi è cambiato solo, come cambia ogni anno, il virus utilizzato per la replicazione. Una brevissima domanda le arriva dal dottor Confalonieri. Dottore. Buongiorno, ben ritrovato. Rapidissima, si parla tutti di scuole, si parla di tutti di rischi per i bambini, non si parla di palestre, centri sportivi, piscine, società sportive come luoghi a rischio. Io ne sono contento, che non se ne parli. Vorrei essere rassicurato, nel senso che le precauzioni che normalmente si prendono tutti, famiglie e gestori, relativamente all'influenza classica, sono in questo momento adeguate e sufficienti anche relativamente a questa influenza A. Che ne dice? Assolutamente confermo quanto detto, però effettivamente la ricomprensione delle piscine, palestre, c'è in termini di rischio, perché si tratta di luoghi affollati, di ambienti caldo-umidi che in effetti, soprattutto la parte degli spogliatoi, poi è abbastanza a rischio, ma credo che è importante non fare terrorismo e non allontanare le persone, certo, da quello che è la necessità di una pratica sportiva, anche se mi sa, e su questo senso sono stato contattato anche da società sportive, ci saranno problemi sulle prestazioni per esempio agonistiche dei giocatori, vuoi di calcio ma anche di altri sport, e questo è un elemento però, no, del medico sportivo, certo, per questa parte di difficoltà, ma il problema poi si pone invece nella grande massa di frequentatori che a mio avviso devono continuare a frequentare questi ambienti, perché l'attività fisica è un elemento positivo rispetto alla protezione dalle malattie infettive in generale. Rende forti, come si dice, rinforza, come dicevano le nostre nonne. Professor Pregliasco, grazie per essere stato con noi. Alla prossima occasione. Alla prossima. Abbiamo Bruno che ci chiama da Brescia. Buongiorno Bruno. Buongiorno a entrambi e grazie di aver richiamato. Vi faccio il quadretto della situazione. Io penso di essere un pigro professionale. Non faccio assolutamente, non ho mai fatto sport nella mia vita, perché ho sempre suonato e quindi probabilmente dedicavo tutto il mio tempo a quello. Che cosa suona, Bruno? Ma sono batterista, ma in realtà non lo faccio per mestiere. Ma vabbè, ma cosa c'entra? Lo facevo intensamente, e che è un po' uno sport. In ogni caso, oggi lavoro, purtroppo viaggio sempre e quindi sono sempre seduto. Non faccio nulla e giustamente mia moglie si lamenta della pancetta, ha ragione, che è l'unica parte grassa che ho. Sono alto 1,83, peso 78 kg, quindi vorrei liberarmi della pancetta altrettanto. Senta, ma secondo lei riprendere a suonare la batteria, che sono sempre tutti molto agitati, poi i batteristi, non riesce a mandare giù un po' di pancetta? Dottor Confalonieri? Bah, la batteria, certo, la pancetta non la butta giù, però va benissimo come esercizio fisico, sia sul piano della forma sia sul piano del benessere psicologico. Quindi un consiglio: continui a suonare, che gli fa comunque bene. Riprenda. E se proprio la moglie insiste, si conceda lo spazio durante il weekend per un'uscita a piedi o un'uscita in bicicletta, magari con la moglie, prolungata. Farà bene alla coppia, farà bene alla pancia. Senta, porti sua moglie a ballare, Bruno. Non senta il dottor Confalonieri, che è un medico maschio. Senta me come moglie, la porti a ballare, poi se si balla anche meglio con un ballerino un po' morbido, e quindi la pancetta tornerà bene. Marco dalla provincia di Monza, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. buongiorno. Io volevo una domanda semplicissima. Io sono uno sportivo da settembre a giugno. Sì. E praticamente gli altri anni, ho 32 anni, sì, e faccio arti marziali 3 volte alla settimana e 2 volte alla settimana vado a correre. Gli altri anni, ad agosto, andavo a correre 2 volte, invece quest'anno non ho fatto assolutamente nulla. Come mai, Marco? Perché mi sono voluto rilassare. Ah, pensavo che si fosse innamorato. No. Cioè, l'amore c'è. Quello ci vuole. Tra l'altro anche la mia ragazza è sportiva, quindi. Perfetto. Però quest'anno ci siamo voluti proprio rilassare. E ho messo su 4 kg, accidenti. Vi siete rilassati proprio bene. E adesso che si fa? Ecco, io adesso ho ricominciato ad andare a correre, poi ricomincerò a fare appunto la mia attività settimana prossima e volevo sapere dal professore, insomma, com'è che, perché ho un po' d'ansia rispetto a questa cosa qui e volevo sapere un po' com'è che mi devo comportare. Noi tra l'altro di perdita di peso parleremo lunedì, il dottor Confalonieri tornerà perché noi ne parleremo con il dottor Berrino e quindi ci darà delle indicazioni dal punto di vista dietetico, ma sicuramente entrerà in onda anche il dottor Confalonieri, quindi per tutte le persone morbide l'appuntamento è per lunedì alle 11 dopo il GR delle 11. Ma dottor Confalonieri, a Marco, per togliergli l'ansia di questi chili in più, che cosa possiamo suggerire? Beh, innanzitutto 4 chili si prenda 4 mesi per perderli, 1 chilo al mese senza ansie. Come fare? Quando fa l'allenamento di arti marziali o subito prima, 15-20 minuti di pesi a bassa intensità o al termine un quarto d'ora 20 minuti di cicletta a bassa intensità. Un messaggio di Diego prima di andare alle strade. Spiacente per le vacanze andate male, a me è andato male il rientro, ma bentornato e bentornato anche al giorno dell'attività fisica. Dottor Confalonieri, vedo davvero, quanti Diego. Ammiratori. Eccoci, Patrizia da Belluno, buongiorno. Dottor buongiorno. Confalonieri, è pronto? Prontissimo. Allora, vada Patrizia. Sono Patrizia, chiamo da Belluno. Sì. Io ho partecipato alla maratona di Fusse, una maratona alla fine di luglio. Sì. La maratona, ho fatto una gara veloce di 25 minuti e fatta la gara, dopo una settimana ho avuto male ai glutei, tutti e due, che non riesco a stare seduta e mi fa male fino giù sotto il ginocchio. Volevo sapere se poteva essere la maratona, se potevano essere le scarpe che ho cambiato, perché dalle Mizuno sono andata alle Brooks. Volevo sapere un po' come mai che mi è venuto sto male e cos'è, se è un'infiammazione ai tendini. Difficile, è un po' difficile fare una diagnosi da qui a distanza al telefono, per però l'idea che mi posso fare è che sia successo qualcosa, ci sia qualche problema a livello della colonna, magari legato anche al sovraccarico della corsa intensa fatta pochi giorni dopo, che determina una sofferenza nervosa e quindi questi dolori. Considerato da quanto tempo soffre, è assolutamente necessaria però una visita specialistica. Sì, ne parla con il suo medico curante. Esatto. E lui sicuramente la indirizza, perché la figura del medico di base è come essenziale. Primo filtro è fondamentale. Allora, anzi, li ringraziamo. Andiamo a Monza, che ci aspetta Maurizio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione, oh, siete grazie. Semplicemente speciali. Bravo, detto questo, che baci. Volevo... grazie. Detto questo volevo raccontarmi la mia testimonianza per quanto riguarda le mie vacanze di quest'anno. Sì. Partendo per le vacanze, con tutto l'entusiasmo del caso ovviamente, mi reco in un villaggio in Sicilia. Il mio primo giorno di vacanza, premetto che non sono uno sportivo, sì, lavoro come autista, per cui insomma una vita piuttosto sedentaria, l'animatore del posto mi invita a giocare a calcetto, ho detto vabbè, ma tanto sono in vacanza, insomma qualche limite in più posso. Nel mio prima partita mi casco rovinosamente, diagnosi, dopo vado a pronto soccorso, distacco del malleolo, vacanze praticamente rovinate al primo giorno. Nei 10 giorni di vacanza io sono costretto a stare su una sedia a rotelle perché devo tenere l'arto assolutamente. Senta Maurizio, quindi non è andata granché bene, ma adesso poco a poco Maurizio riprenderà. Allora io direi, Maurizio, ci scriva, ci racconta come nei prossimi, anche nelle prossime settimane, come si sta rimettendo in forma, e io ogni tanto le do gli aggiornamenti dal dottor Confalonieri, che dice. Assolutamente. Così l'accompagniamo, non si preoccupi, le sue vacanze siamo noi. Grazie Maurizio per essere intervenuto. Dottor Confalonieri, noi adesso andiamo a friggere, noi ci sentiamo venerdì grazie prossimo, a tutti, anzi a lunedì. Lunedì e poi venerdì. E prima di salutarci, l'avevamo già anticipato ieri, andiamo tutti a farci friggere, o meglio a imparare a friggere in tutta sicurezza. In linea con noi la professoressa Marisa Porrini, ordinario di nutrizione umana all'Università di Milano. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Allora professoressa, noi siamo pronti, prendiamo tutto l'occorrente. Dunque, vorrei fare una brevissima premessa dicendo che è molto importante ricordare a tutti che dobbiamo porre tanta attenzione quando scegliamo l'olio per friggere, in generale l'olio per cuocere, la stessa attenzione che riponiamo quando scegliamo l'olio per condire, perché durante la cottura l'olio viene sottoposto a temperature elevate e si può danneggiare. Quindi scegliamo sempre prodotti di elevata qualità. Io consiglio l'olio extravergine di oliva, in alcuni casi l'olio d'oliva. L'olio di semi? Possiamo anche utilizzare l'olio di semi, assolutamente si deve utilizzare un olio monoseme, sì, e sempre di buona qualità. E dopo l'olio pensiamo alla padella. Dunque, non ci sono motivi per non utilizzare un antiaderente. Un buon fritto si fa normalmente immergendo il prodotto, l'alimento nell'olio, quindi per evitare di consumarne quantitativi elevati si consiglia anche di utilizzare un tegame con i bordi più alti, magari meno grande, con un buon volume di olio dove appunto l'alimento possa immergersi bene, quindi friggersi in modo omogeneo senza doverlo girare troppe volte, e in questo modo si riescono anche a ridurre un po' i tempi di cottura. Quindi bisogna riscaldare l'olio, ma non eccedere nel riscaldamento, e quindi fare una prova con un pezzettino dell'alimento che si vuol friggere per vedere se l'olio comincia a sfrigolare, si procede velocemente alla frittura. Un altro errore frequente è quello di riutilizzare lo stesso olio troppe volte. E poi un'altra cosa da evitare, non vorrei dire che è un errore grave, ma una cosa che si deve evitare, è quella di non far decantare, asciugare l'alimento fritto nella carta o in qualche materiale che trattenga una parte dell'olio. Grazie professoressa Porrini per essere stata con noi. Arrivederci. Buona giornata quindi a chi ci ha ascoltato. L'appuntamento invece con noi torna domani per Questa casa non è un albergo a mezzogiorno. Lunedì invece vi aspetto per continuare a parlare di salute alle 11 dopo il GR. Non mancate, e come sempre se volete portare un amico con voi è sicuramente il benvenuto. Buona giornata da Nicoletta Carbone.